51 years ago, John F. Kennedy declared to this chamber that the Constitution makes us not rivals for power, but partners for progress. Accoglienza calorosa, l'avete sentito, per il presidente Barack Obama ieri sera al Parlamento, riunito in seduta plenaria per il discorso sullo Stato dell'Unione. E applausi naturalmente di accoglienza, applausi anche quando il presidente ha dato la notizia chiave della serata, e cioè che entro un anno 34.000 soldati schierati al fronte in Afghanistan rientreranno a casa, sarà dimezzata la presenza americana al fronte. Meno applausi quando il presidente ha parlato di immigrazione, di necessità di riforma per il porto d'armi, tra l'altro ha mostrato un insegnante della scuola elementare Sandy Hook proprio per rafforzare il suo messaggio. Obama ha anche un obiettivo politico, quello di rafforzare la sua presidenza, di mettere in difficoltà i repubblicani e di conquistare fra due anni, se non la maggioranza, comunque quanti più seggi possibili alla Camera. Mario Platero, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York.